Subhanallah, incondivisa è la qualità divina di Allah, da ripetere 33 volte. Alhamdulillah, la lode appartiene ad Allah, da ripetere 33 volte. Allahu Akbar, Allah è il più grande, da ripetere 33 volte.